Investire informati. Ci stuzzica il tema del metallo giallo in questo periodo, perché stiamo raccontando da molte settimane come stiano correndo le borse, che praticamente senza alcun timore stanno archiviando tutto quel ribasso così importante che abbiamo visto fra marzo ed aprile. Ieri abbiamo raccontato nei nostri collegamenti di borsa come per esempio la piazza tedesca sia ritornata ai livelli pre-Covid, ci sta ritornando piano piano anche Piazza Affari, è sui livelli di inizio marzo, per non parlare poi di quello che succede a Wall Street, dove il Nasdaq, l'indice della tecnologia, è ai massimi di sempre. Allora, quando corre il mercato azionario è abbastanza difficile pensare che gli investitori si proteggano contestualmente, magari fanno delle operazioni con derivati sulle valute, ma è difficile che si intraveda anche la corsa dei cosiddetti, come dicevi tu Mauro, beni rifugio. Invece in questo periodo stiamo vedendo l'oro che è protagonista di una corsa forsennata. Ti dico quanto vale adesso, perché anche stamattina corre, siamo in questo momento a $1,881 l'oncia. E allora, che succede? Peraltro non è il solo, perché anche l'argento sta correndo, corrono tutte le società che estraggono e che producono, quindi c'è proprio tutta una dinamica che si è messa in moto che vale la pena analizzare. Allora, tu lo hai citato, vuoi salutare tu l'ospite di questa mattina? Ma certamente, diamo il benvenuto, ma anzi il bentornato, a Salvatore Gazziano, responsabile strategie di investimento di Soldi Expert. Buongiorno, bentornato a Due di Denari, Salvatore. Buongiorno a voi. Allora, che dobbiamo fare con questi beni rifugio? Ovviamente, se si chiamano beni rifugio vuol dire che insomma, da qualche parte qualcuno li acquista, li predilige, e di solito si dice crescono quando c'è più incertezza. In realtà i mercati non mi pare che abbiano proprio tutta questa incertezza, almeno a giudicare dall'andamento degli ultimi, non dico settimane, ma addirittura mesi. Come spieghiamo tutto questo ai nostri ascoltatori, Gazziano? Ma diciamo che questa tendenza molto forte dell'oro, ieri mentre dicevate anche, parlate della Germania, dopo il DAX che ieri ha visto in questi giorni di fatto annullare tutto il gap ribassista accumulato con la pandemia. In Germania tra l'altro è un paese che ha una cultura molto forte anche dell'oro fisico, a differenza dell'Italia, e c'era questo report che è uscito ieri di una banca tedesca che parlava di festa selvaggia sui metalli preziosi, per raccontare questo momento veramente, questo clima molto forte su tutto ciò che riguarda i beni preziosi. In realtà questo movimento sull'oro non è proprio iniziato solo adesso, sicuramente la pandemia ha accelerato questo movimento in maniera molto forte da parte di molti investitori, anche istituzionali, ma in realtà già da un anno e mezzo noi ne avevamo scritto, avevamo pubblicato un report come Soldi Expert già estate, proprio un anno fa avevamo pubblicato un report, un PDF per dare indicazioni proprio su questo mercato. Le banche centrali in realtà molte avevano già aumentato nettamente le riserve, soprattutto la Russia, la Cina, la Polonia, la Turchia, per avere anche, questo è anche uno dei motivi che spiega anche in questo momento loro questa attenzione, per avere riserve diversificate, quello che diceva la risparmiatrice, quindi non essere dipendenti solo dalle riserve per esempio in dollari. In questo momento c'è anche questo effetto di persone che sono preoccupate, investitori, del calo del dollaro, e quindi preferiscono essere ancorati a un altro bene come l'oro. E dall'altra parte tutto ciò che è successo negli ultimi mesi con questo intervento massiccio che non vedevamo nemmeno dopo la crisi Lehman, di banche che hanno inondato i mercati di liquidità facendo scendere i tassi di interesse, rende come rischio opportunità l'investimento in oro, secondo molti, più interessante, perché mentre l'alternativa magari qualche anno fa era dire l'oro non rende nulla, sappiamo, ma invece avevi l'alternativa di un investimento obbligazionario che ti rendeva il 2-3%, oggi questo costo opportunità non c'è, quindi in una logica anche di diversificazione ma anche di contrappeso al proprio patrimonio, come c'è anche tutta una tesi soprattutto di chi compra oro fisica, anche di rischio di shutdown dell'economia, anche di apocalisse finanziaria, allora io mi metto dell'oro in portafoglio. Questo è il ragionamento che spiega anche da parte anche di alcuni investitori anche privati l'aumento anche di possesso di oro fisico, perché comunque è una sorta di assicurazione. Poi in realtà la storia ci dice che l'oro è un investimento sicuramente interessante, ma che bisogna anche qua ragionare in termini di diversificazione, perché non esiste nessun investimento sicuro, e anche la storia ci dice che l'oro ha avuto anche periodi in cui ha perso il 30-40%, quindi chi va a dire che l'oro è l'investimento sicuro bisogna sempre prenderlo con le molle. Beh, infatti, Deborah, Tu sai, sì, che addirittura al Serpente Corallo qualche anno fa avevamo parlato di quelli che vendevano un lingotto, però lo stesso lingotto a tante persone, sì, quindi insomma è anche, sì, spesso un materiale. La storia preferita di Stefano Elli, infatti, se non mi ricordo male, una delle preferite sue. Sì, esatto. Salvatore, allora chiaramente quando parliamo di record, in genere per tutte le classi di investimento è un momento un po' tardivo per cominciare ad investire appunto su classi di investimento che appunto raggiungono livelli molto alti, ma per chi si volesse approcciare in questo momento a loro, a parte quello fisico che è quello che piace un pochino di più alle donne con i gioielli, qual è il modo migliore per investire in questo mercato? Noi sappiamo che ci sono sicuramente fondi di investimento specializzati che sono quelli che sono composti da proprio società, no? Si può investire sulle società che estraggono, eccetera, e poi ci sono i cosiddetti ETC che sono gli ETF sulle commodities. Oltre a questo c'è dell'altro da segnalare ai nostri ascoltatori, e questi strumenti come funzionano, se ce lo puoi sintetizzare? Ma sì, il campionario è molto alto, si va dall'acquisto di oro fisico, monete d'oro, classica sterlina, lingotti, che poi c'è anche una forma ormai evoluta, ibrida, in cui tu compri attraverso degli operatori che te li custodiscono in camera di sicurezza. Attenzione tra l'altro all'oro fisico, di comprarlo, come diceva giustamente Meazza, da intermediari autorizzati, c'è un, esatto, elenco sulla Banca d'Italia, perché ci sono una marea di truffe, anche la Germania, che sono dei veri acquirenti di oro fisico, molto più che in Italia. Ci sono state tutta una serie anche di multilevel, di catene di Sant'Antonio che fanno, ad esempio, utilizzano adesso l'esca del fatto che l'oro sale e vendono delle robe irrealizzabili. Anche in Italia in questo momento so che ce ne sono alcune, quindi l'oro fisico. Per quello che riguarda invece l'oro finanziario, gli strumenti principali sono o fondi di investimento, ma esistono anche degli ETF che replicano il possesso di quote in azioni in società aurifere, cioè che estraggono l'oro, si chiamano appunto ETF, e alcuni devo dire che si stanno comportando anche molto meglio di fondi di investimento specializzati nel settore aurifero, perché hanno delle commissioni molto più basse. Un consulente indipendente guarda e consiglia anche queste cose. Poi esiste, come dicevi giustamente Deborah, anche degli ETC che invece posseggono e replicano l'andamento dell'oro, e alcuni proprio ti danno l'acquisto indiretto proprio del tuo lingotto, custodito naturalmente dagli emittenti. Quindi questi ETC, che è proprio il physical gold emesso da diverse società, permette di partecipare al rialzo dell'oro, e anche qui un'importante notazione sempre da ricordarsi, che l'oro è espresso in una valuta che è il dollaro, quindi in realtà può anche capitare che il prezzo tenga conto quindi dell'andamento valutario, e se, come è successo negli ultimi giorni, l'euro si rafforza del 3% e il dollaro del 3%, tu questo effetto lo hai annullato da queste due forze che sono contrarie. Ma anche qui, se uno invece ha una visione che non vuole prendersi il rischio cambio, esistono anche ETC che replicano l'andamento dell'oro fisico. ETC o ETF sono prodotti che qualsiasi banca, qualsiasi intermediario ha nella piattaforma, perché sono quotati su borsa italiana, che coprono, ci sono alcuni ETC, in particolare uno sicuramente, che replica l'andamento dell'oro fisico con la copertura del rischio cambio, e questo permette anche di diciamo sterilizzare questo effetto, che può essere molto, certo, positivo ma anche molto negativo. Ricordiamo che nel 2011 il rapporto euro-dollaro era circa 1,40, motivo per cui oggi l'oro è ai massimi su molte valute, ma non lo è magari negli Stati Uniti. L'oro è, scusate, l'euro è a 1,15, quasi a 1,16 sul dollaro, certo, e peraltro c'è stata proprio questa fiammata degli ultimi due giorni, ma è ben distante appunto, come diceva Salvatore, dei livelli che segnalava lui. Mauro. No, volevo chiedere solo una battuta, un'ultima battuta sull'argento, che è un altro metallo, appunto abbiamo detto in apertura, che sta apprezzandosi molto, ma anche perché c'è un utilizzo industriale dell'argento. Industriale. E quindi impiegato ad esempio nei pannelli solari, che adesso appunto col tema energetico fanno presagire un utilizzo sempre più intensivo. Sarà mica colpa del bonus del 110% se l'argento schizza, Mauro? Ma sai, il fisco è sempre dovunque, quindi secondo me uno dovrebbe poter investire in fisco, ma vabbè, lasciamo adesso questo scherzo. Invece io vorrei chiedere a Salvatore Gazziano, per l'argento si possono fare le stesse considerazioni, cioè l'acquisto può avvenire in modo da intermediari finanziari, quindi acquisendo strumenti finanziari che poi a loro volta investono in argento o sulle quotazioni dell'argento. Esatto, sì. anche qui esistono anche qua ETC che replicano l'andamento dell'argento. L'argento diciamo che è rimasto un po' indietro, anche se nelle ultime settimane è salito quanto l'oro, almeno a livello di 2020, ma storicamente negli ultimi lustri l'argento è salito nettamente meno dell'oro, perché mentre l'oro è considerato veramente un bene rifugio molto più raro, l'argento è utilizzato anche molto nell'industria e quindi è considerato qualcosa che in un andamento economico molto recessivo potrebbe vedere le quotazioni anche abbassarsi, perché cala la domanda industriale tranne in alcuni settori, come avete ricordato voi. Infatti il rapporto oggi a parità di tra oro e argento è di circa 80-90 volte di differenza di prezzo. Anzi, oggi se volete andare a comprare un chilo d'oro invece che andare a comprarvi un chilo di zucchine, il prezzo è ben di 52.000 euro, credo, in questo momento. Ecco, adesso vedo che cosa ho nel portafoglio. Magari ci guardo, ringraziando Salvatore Gazziano, che è naturalmente ospite conosciuto dai nostri ascoltatori, responsabile di strategia di investimento di Soldi Expert. Due di denari. Buongiorno, essendo orafo sono dentro la questione dell'oro, ricordiamoci che comunque nel 2011, un venerdì alle 9 di sera da noi, luna a New York, l'oro perse 9 euro di colpo. Io aspetterei ad agosto a vedere che scherzo fa, ma poi stiamo attenti che non facciano di nuovo questo scherzo per speculare. Oh yeah, that's what I want. Buongiorno, sono Antonio da Cascina. Gentilmente potete chiedere all'esperto se esiste un ETF o un ETC che nel suo paniere include trasmissioni come due di denari? Quelle valgono più dell'oro. Ringraziamo Antonio, naturalmente, gentilissimo, no, la mia autostima sta ballando il tip tap in questo momento. E con questo clima così di festa, di entusiasmo, io do il benvenuto a Due di Denari a Giovanni Daprà, co-founder e CEO di Moneyfarm, società di gestione del risparmio, società che ha soprattutto un approccio digitale. Buongiorno dottor Daprà, benvenuto a Due di Denari. Buongiorno e grazie per avermi fatto venire. Allora, dobbiamo cominciare, abbia pazienza, ma qui oramai la domanda del momento è questa: ma se le economie reali sono in difficoltà, se c'è bisogno di piani di intervento massicci da parte delle banche centrali, dalle autorità sovranazionali, di recovery fund, com'è che i mercati invece sono così mediamente ottimisti, direi, ma forse anche togliamo il mediamente, oppure mi sbaglio io e non sto valutando bene la condizione in cui ci troviamo? Ma io credo che uno dei motivi per cui i mercati sono proprio ottimisti è proprio legato ai grandi interventi che sono stati fatti dalle banche centrali e dagli stati, che paradossalmente hanno posto un problema anche per gli operatori di mercati come noi, che credono in qualche modo in una visione fondamentale delle valutazioni, se questi prezzi devono essere considerati coerenti proprio per lo scenario di estrema liquidità in cui stiamo vivendo. Quindi diciamo che ci sono due facce della medaglia. Il primo è che comunque continuiamo a vedere dei dati negativi ma in miglioramento, e il secondo è che anche questi dati negativi vanno reinterpretati in un contesto in cui le alternative di investimento, data la liquidità sui mercati, è veramente molto molto sono molto difficili da trovare. Quindi i prezzi di oggi non possono essere interpretati come i prezzi di ieri, ecco, questo è un po' la sostanza del discorso. Con tutto che, aggiungo solo un ultimo punto, anche vedendo i dati della stagione di earning, quindi delle aziende che pubblicano i risultati nello scorso trimestre, in America, anche se sono ancora poche le aziende che le hanno pubblicate, abbiamo visto una discesa delle vendite, del sales growth cosiddetto, quindi le vendite solo del 6% il trimestre scorso rispetto a quello precedente, che considerando quello che è successo, dopo tutto credo sia corretto interpretarlo come una risposta positiva. Deborah. Giovanni, avete sicuramente anche voi osservato con una attenzione speciale il comportamento dei risparmiatori in questo momento, anche se c'è da dire proprio per la tipologia di business che è la vostra, che è vostra, appunto, avete a che fare probabilmente con un risparmiatore un pochino più attrezzato e corazzato anche ad affrontare fasi di mercato più complesse delle solite. Diciamo che il risparmiatore che si rivolge ai vostri servizi è quello un po' più capace di prendere delle decisioni in autonomia ed è un pochino più distaccato dalla, se vogliamo, consulenza finanziaria, ma non dissociato del tutto, perché poi voi chiaramente fate anche erogate anche questo tipo di servizio. Però ecco, ribadisco, il risparmiatore che si rivolge ad una piattaforma come la vostra è un pochino più attrezzato in termini di capacità di prendere delle scelte finanziarie. Detto questo, però, abbiamo un mercato che, anche per le ragioni che spiegavamo poco fa, è molto difficile da interpretare e seguire. Che cosa avete notato di particolare negli ultimi mesi? Abbiamo avuto questo terribile mese di marzo in cui tutti hanno cominciato a disinvestire come se non ci fosse un domani, poi pronti subito a riacquistare nelle settimane successive quando il mercato ha dato abbastanza immediatamente segnali di ripartenza. Voi che cosa avete notato? Allora, direi che noi siamo stati sorpresi in modo positivo dalla capacità dei nostri clienti di seguire un po' le indicazioni che gli abbiamo dato di rimanere investiti con i dati che lo dimostrano, nel senso che addirittura anche a marzo noi abbiamo registrato raccolta positiva, cioè i flussi di nuovi clienti, dei clienti esistenti che continuavano a investire erano maggiori dei clienti che decidevano di disinvestire. È chiaro che a prescindere da quanto la persona sia informata o competente, siamo tutti in qualche modo impattati dalla cosiddetta loss aversion, cioè l'avversione alla perdita che è maggiore della prospettiva di guadagno, e questo è un fatto ormai abbastanza consolidato ed è un po' come il nostro cervello ragiona. Quindi il ruolo di Monifarm è in generale dell'industria dei consulenti finanziari è proprio quello di cercare di spiegare come gestire questo tipo di emotività in un contesto in cui appunto se uno vende, io dico sempre che fa una decisione e poi deve ricomprare, quindi deve fare due decisioni giuste. Se invece uno non fa niente, è una decisione, quindi sostanzialmente solo anche a livello molto semplicistico riuscire a vendere e ricomprare nel momento giusto sono due decisioni giuste rispetto a non fare niente, che è una decisione, quindi è più difficile farlo, e questo lo vediamo nei numeri. Noi abbiamo fatto uno studio in realtà pre-Covid, negli ultimi due anni, facendo vedere i clienti che ci avevano contattato con uno stimolo di vendita, quindi magari presi da momenti di mercato in qualche modo difficili, che effettivamente poi hanno venduto, rispetto a quelli che hanno seguito i nostri consigli e sono rimasti investiti. E non perché Monifarm è particolarmente più brava degli altri, ma la verità è che esiste uno storico che ti dice che rimanere investiti, soprattutto con un orizzonte temporale medio-lungo, è sempre la scelta giusta. Questi clienti, per darvi un'idea di numeri, hanno generato, cioè quelli che ci hanno seguito, hanno generato circa il 2,5% in più di performance mediamente nel corso di quegli anni. C'è anche un interessantissimo studio di Vanguard che calcola il valore del consulente come circa 1,5% in più all'anno. Quindi se si riesce a gestire questo tipo di emotività tramite l'aiuto di un consulente o anche tramite il controllo personale, tendenzialmente si generano rendimenti maggiori di circa l'1,5% all'anno, e questo noi l'abbiamo visto nei nostri dati. Aspetti, dottor Dapra, perché tutti i giovedì noi abbiamo l'appuntamento con il domandone. cara Deborah, a te la parola e a te il nostro ospite Giovanni Dapra. Sì, stiamo parlando appunto di quelle che sono state le abitudini, quelli che sono stati i comportamenti dei risparmiatori in questi ultimi mesi così complicati. E naturalmente anche da Pradi Money Farm ci ha raccontato che i risparmiatori, quindi la loro tipologia di cliente, che io ho definito un cliente un pochino più attrezzato rispetto a molti altri, sono clienti che si sono naturalmente spaventati e che però sono riusciti a mantenersi investiti e quindi adesso si leccano un po' meno le ferite rispetto a tanti altri che invece frettolosamente sono usciti dal mercato, ma comprensibilmente per noi perché ci siamo spaventati tutti tanto a marzo, però hanno perso appunto delle opportunità perché abbiamo continuato a raccontare di mercati che sono ripartiti a razzo e adesso sono alcuni su livelli molto interessanti. E questo ci porta da Pra alla domanda successiva: da qui in avanti come bisognerà guardare i mercati a prescindere dalle questioni finanziarie e macroeconomiche che indicavamo in precedenza? Perché chiaramente su questi livelli forse bisognerà capire se riorganizzare in maniera diversa il portafoglio, e chiaramente tutto dipenderà dai conti delle società, dallo scenario macroeconomico di fondo che continuiamo a dire è molto compromesso, e quindi insomma ci sono tanti punti interrogativi. Quali sono i più importanti che sono nella testa delle persone che si rivolgono a voi per i vostri servizi? Ma io direi che possiamo anche dire quello che abbiamo fatto noi come team di gestione sui portafogli, però sostanzialmente noi oggi stiamo guardando, direi, tre cose: i dati macroeconomici, appunto, e quanto effettivamente questa ripresa post-Covid si traduce poi in un miglioramento dei consumi e dell'attività reale. Il secondo punto, appunto, sono il tema dei prezzi, ma non le valutazioni, diciamo, prese in un contesto storico, ma prese nel contesto di riferimento di oggi, quindi con dei tassi di interesse negativi o molto molto bassi, e un fattore di liquidità enorme da parte dello Stato. Quindi il vero problema di oggi, la complessità, sta nel riuscire a in qualche modo a ragionare attraverso questi fattori con le lenti di quella che è la situazione di oggi, che è molto molto particolare anche da un punto di vista storico. Noi abbiamo cautamente aumentato l'esposizione all'azionaria nelle ultime settimane, perché pensiamo che comunque appunto i dati macroeconomici stiano in miglioramento ed esiste questa situazione un po' squilibrata sul tema della liquidità, quindi abbiamo interpretato in questo contesto le valutazioni. Poi la verità è che dipende molto dalle persone, dall'orizzonte temporale e l'obiettivo, perché certo, comunque c'è sempre anche un grosso rischio, e tu l'hai detto appunto, Deborah, cioè come era facile in qualche modo immaginarsi che il mercato scendesse tanto, diciamo, come è successo a marzo, era molto difficile immaginarsi che riprendesse così velocemente, quindi c'è sempre il rischio di non rimanere investiti. Ecco, che questa è una cosa che noi ricordiamo sempre al cliente: se uno degli obiettivi di lungo periodo, per esempio previdenziali, è veramente molto importante non sottovalutare il rischio di rimanere fuori dal mercato in questi momenti. Il FOMO, Mauro, hai visto che adesso abbiamo anche questa ulteriore espressione che ci farà compagnia magari nei prossimi mesi, che ne sappiamo? Beh, un Fear of missing out. Sì, ma anche paura di perdere l'autobus, mi viene da dire, cioè un pochino esatto, sarebbe quella cosa lì, no? Ma invece la parola previdenziale mi ha colpito nella risposta di Dapra. Previdenziale nel senso che allora anche orizzonti lunghissimi, pur in un momento così di volatilità, possono essere, come dire, interessanti, possono servire, possono essere utili all'investitore? Beh, diciamo, l'orizzonte temporale va un po' abbracciato con il rischio, nel senso che le due cose, più uno ha un orizzonte temporale di lungo periodo, meno si dovrebbe preoccupare di quello che è il rischio di perdere soldi o di oscillazioni di breve. E più invece si dovrebbe preoccupare di perdere dei rendimenti fondamentali per il raggiungimento del loro obiettivo. Quindi noi diciamo sempre che sono veramente due cose che vanno a braccetto, quindi più uno può guardare avanti, e nel caso della previdenza, per molte persone, diciamo, con 20-30 anni dalla pensione sei costretto e giustamente obbligato ad andare avanti, quello è un beneficio che non dovresti mai, diciamo, lasciare sul tavolo, dovresti usarlo a pieno e dovresti investire al massimo sapendo che tanto non avrai problemi di quello che succede nei prossimi 3-5 anni, non ti impatterà il tuo risultato finale. Deborah. Mauro, sì, no, volevo sapere che cosa abbiamo lasciato lì un pochino in sospeso l'ascoltatrice che ci aveva mandato quelle WhatsApp chiedendoci. Hai ragione. Sono cliente di un unico intermediario, non so se sia una banca, ammettiamo che sia questa, e ho come investimenti, i miei investimenti sono distribuiti in due prodotti, è sufficiente come diversificazione? Da Pra, a cena un'amica le fa una domanda di questo tipo, considerandola appunto un esperto del settore, che cosa gli risponderebbe? Che cosa le risponderebbe? Allora, è sempre molto difficile perché bisogna vedere cosa c'è dentro quei prodotti, quindi il tema è capire qual è l'esposizione o come questi prodotti sono stati costruiti per prendere, diciamo, vantaggio di tutti i mercati. Io credo che in un contesto come questo la diversificazione diventi ancora di più la regola numero uno, perché è l'unica certezza che si ha sui mercati. Due mi sembrano pochi, pochini, quindi a meno che non siano, diciamo, fondi cosiddetti multi-asset, però è veramente importante in un mondo così incerto diversificare, perché quello è il modo migliore per avere, diciamo, la certezza che qualcosa andrà bene. Quindi questo credo che anche proprio in un contesto particolarmente italiano, in cui i risparmiatori italiani hanno sempre fatto fatica a vedere la diversificazione come uno dei fattori rilevanti di successo della strategia di investimento, penso che oggi sia un messaggio che dobbiamo dare ancora più forte, proprio data l'incertezza del momento in cui ci troviamo. Torno invece sul tema delle pensioni, perché sai, forse hai già sentito dire, l'abbiamo detto in questa trasmissione, si chiama Due di Denari, Deborah, che il prossimo mese di ottobre, il mese del risparmio, sarà proprio dedicato alla educazione previdenziale in qualche modo. E allora, siccome diversi ascoltatori anche oggi ci dicono sì, vabbè, ma se si assottigliano i guadagni, abbiate pazienza, come facciamo anche a immaginare di risparmiare addirittura per le pensioni? E allora anche questa è una domanda un po' che potrebbero farle a cena da Pra. Lei come risponderebbe? Però devo chiedere di rispondere in un minuto, perché poi abbiamo il domandone e andiamo alla chiusura della puntata. Prego, Dapra. Guardi, le rispondo in 5 secondi. Se non risparmiate per le pensioni, per cosa risparmiate esattamente? Perché lei dice è l'unico vero obiettivo in fondo alla fine che ci porta a risparmiare, cioè poter avere a disposizione un capitale quando non saremo più in condizione di guadagnarlo. È l'obiettivo più importante. Tutto il resto sono cose che dopo tutto dovrebbero venire dopo. Quindi no, non la speculazione, ma invece un orizzonte di lungo periodo. Interpreto correttamente? Corretto.